Non lo so, per me va bene perché io ci sono, mi piace in città, che è tutto qua vicino, asilo, scuola, negozi. Per me va bene, mi piace qua Ah, vivere. grazie Perché mille. una volta eravamo a Trento. E la Trento non mi piace perché sono troppo agenti. Qua, ma molto mi piace qua. Grazie mille. I miei bambini sono contenti con la scuola, l'asilo, mia figlia adesso è in prima classe qua.